alla piccola di... Ad alta voce, Marco Foschi legge Doppio sogno di Arthur Schnitzler, traduzione di Giuseppe Farese. 24 schiavi mori spingevano remando la sfarzosa galera che doveva portare il principe Amjad al palazzo del califfo. Ma il principe, avvolto nel suo mantello di porpora, se ne stava solo, sdraiato in coperta, sotto l'azzurro cupo del cielo notturno disseminato di stelle, e il suo sguardo... La piccola aveva letto fin lì ad alta voce. Ora, quasi all'improvviso, le si chiusero gli occhi. I genitori si guardarono sorridendo. Fridolin si chinò su di lei, le baciò i capelli biondi e chiuse il libro, che si trovava sulla tavola non ancora sparecchiata. La bambina lo guardò come sorpresa. «Sono le 9», disse il padre. «È ora di andare a letto?» E poiché anche Albertine si era accostata alla bambina, le mani dei genitori si incontrarono sulla fronte amata, mentre i loro sguardi si scambiavano un tenero sorriso, che non era rivolto più solo alla bambina. Entrò la governante e disse alla piccola di dare la buonanotte ai genitori. Lei si alzò obbediente, diede un bacio al padre e alla madre e si lasciò condurre docilmente dalla signorina fuori dalla stanza. Fridolin e Albertine, ora finalmente soli sotto il chiarore rossastro della lampada, ebbero un tratto fretta di riprendere la conversazione cominciata prima di cena su quanto era accaduto durante il ballo in maschera il giorno precedente. Era stata quell'anno la loro prima festa da ballo e avevano deciso di parteciparvi quasi alla fine del carnevale. Fridolin, appena entrata in sala, era stato salutato come un amico atteso con impazienza da due maschere in domino rosso che non era riuscito a identificare, sebbene esse conoscessero con sorprendente precisione ogni specie di storiella dell'epoca in cui era studente e praticante in ospedale. Si erano allontanate dal palco in cui lo avevano invitato con insistenza, assicurando che sarebbero tornate poco dopo e senza costume. Ma erano restate via così a lungo che Fridolin, impazientitosi, aveva preferito scendere in platea, sperando di incontrare di nuovo quelle due ambigue figure. Ma per quanto si sforzasse di guardarsi intorno, non era riuscito a scorgerle da nessuna parte. Al posto loro, qualcun altro si era attaccato di sorpresa al suo braccio. La moglie, appena liberatasi da uno sconosciuto dall'aria malinconica e blasé e dall'accento straniero, palesemente polacco, che l'aveva dapprima affascinata e poi all'improvviso offesa e addirittura spaventata con una insolente parolaccia. Così marito e moglie, contenti in fondo di essere sfuggiti a un banale deludente scherzo di carnevale, si erano trovati ben presto al buffet tra ostriche e champagne, come due amanti fra altre coppie innamorate. Avevano conversato divertiti come se si fossero conosciuti solo allora, gettandosi in una commedia della galanteria, del diniego, della seduzione e della condiscendenza. E dopo una veloce corsa in carrozza attraverso la bianca notte invernale, si erano abbandonati a casa l'uno nelle braccia dell'altra, amandosi ardentemente, come non accadeva più da tempo. L'alba grigia li aveva svegliati troppo presto. La professione imponeva al marito di essere già di buon'ora al capezzale dei suoi malati. I doveri di madre e di donna di casa non fecero riposare più a lungo neppure Albertine. Le ore successive erano così trascorse nella monotonia dei loro consueti impegni e occupazioni, mentre la notte passata, l'inizio come la conclusione, era impallidita nel ricordo. Solo ora, compiuto il lavoro quotidiano. Poiché la bambina era andata a letto e non si aspettavano più di venire comunque disturbati, riaffiorarono i fantasmi del ballo in maschera, il melanconico sconosciuto e le figure in domino rosso. E quegli avvenimenti irrilevanti furono ad un tratto magicamente e penosamente avvolti dall'ingannevole parvenza di occasioni perdute. Si scambiarono domande ingenue eppure insidiose e risposte maliziose e ambigue. A nessuno dei due sfuggì che l'altro non era in fondo sincero e si sentirono così inclini a una moderata vendetta. Esagerarono nel valutare l'attrazione che gli sconosciuti partner del ballo in maschera avevano esercitato su di loro. Si beffarono, negandoli, dei moti di gelosia che lasciavano vicendevolmente trapelare. Tuttavia, dalla leggera conversazione sulle futili avventure della notte scorsa, finirono col passare a un discorso più serio, su quei desideri nascosti, appena presentiti, che possono originare torbidi e pericolosi vortici, anche nell'anima più limpida e pura. E parlarono di quelle regioni segrete che ora li attraevano appena, ma verso cui avrebbe potuto una volta o l'altra spingerli, anche se solo in sogno, l'inafferrabile vento del destino. Sebbene la loro unione si fondasse su una perfetta compenetrazione di sentimenti e di idee, sapevano tuttavia che ieri li aveva sfiorati, e non per la prima volta, un'ombra di avventura, di libertà e di pericolo. Trepidamente, tormentandosi, cercarono con sleale curiosità di carpirsi confessioni, e concentrandosi con angoscia sulla loro vita intima, ognuno ricercò in sé qualche fatto anche insignificante, qualche avvenimento anche inconsistente, che potesse esprimere l'ineffabile, e la cui sincera confessione riuscisse a liberarli da una tensione e da una diffidenza che cominciavano a diventare a poco insopportabili. Albertine, forse perché fra i due era la più impaziente, la più sincera o la più indulgente, trovò per prima il coraggio di fare un'esplicita dichiarazione e con voce un po' esitante domandò se si ricordava di quel giovane che sulla costa danese era stato seduto una sera con due ufficiali al tavolo vicino a loro. Aveva ricevuto un telegramma durante la cena e si era quindi rapidamente congedato dai suoi amici. «Ebbene?» fece Fridolin. «L'avevo già visto la mattina», rispose Albertine, mentre saliva in fretta le scale dell'hotel, con la sua borsa gialla. Mi aveva osservata di sfuggita, ma, a fatti alcuni gradini, si fermò, si girò verso di me, e i nostri sguardi dovettero incontrarsi. Non sorrise, mi sembrò anzi che il suo volto si rabbuiasse. E lo stesso capitò a me, poiché ero agitata come non mai. Me ne stetti tutto il giorno trasognata sulla spiaggia. Se mi avesse chiamata, così pensavo, non avrei potuto resistergli. Ritenevo di essere pronta a tutto. Mi credevo pressoché decisa a sacrificare te, la bambina, il mio avvenire, e allo stesso tempo puoi capirlo. Mi eri più caro che mai. Proprio quel pomeriggio, devi ancora ricordartene, capitò che parlassimo di mille cose, anche del nostro comune futuro e della bambina, così intimamente come non accadeva più da tempo. Al tramonto eravamo seduti sul balcone quando lui passò. Camminava lungo la spiaggia senza sollevare lo sguardo. fui felice di vederlo. Tuttavia, ti accarezzai la fronte e ti baciai i capelli. E nel mio amore per te c'era, allo stesso tempo, tanta sofferta compassione. La sera ero bellissima. Me lo dicesti anche tu. E avevo una rosa bianca nella cintura. Forse non fu un caso che lo straniero sedesse coi suoi amici vicino a noi. Non mi guardò, ma io mi baloccai con l'idea di alzarmi, andare al suo tavolo e dirgli: eccomi, mio atteso amante, prendimi. In quel momento gli portarono il telegramma. Lo lesse, impallidì, sussurrò alcune parole al più giovane dei due ufficiali e, sfiorandomi con uno sguardo enigmatico, lasciò la sala. E poi? Fece Fridolin quando ella tacque. Nient'altro. Il mattino seguente mi svegliai con una certa apprensione. Non so, né lo sapevo allora, se temevo di più che fosse partito o che potesse ancora essere là. Tuttavia, quando non ricomparve neanche a mezzogiorno, tirai un sospiro di sollievo. Non farmi altre domande. Ti ho detto tutta la verità. E poi, anche tu hai avuto qualche avventura su quella spiaggia. Lo so. Fridolin si alzò. Si mise a camminare avanti e indietro per la stanza e poi disse: hai ragione. Stava presso la finestra, il viso in ombra. Di mattina, cominciando con una cervellata un po' ostile, a volte anche molto presto, prima che ti alzassi, ero solito camminare lungo la riva, allontanandomi dal paese. E sebbene fosse presto, sul mare brillava già un sole chiaro e forte. Da quelle parti, vicino alla spiaggia, c'erano, come sai, delle villette isolate, ognuna come un piccolo mondo a sé. Alcune col giardino recintato da uno steccato, altre circondate anche solo dal bosco. La strada e un pezzo di spiaggia separavano i capanni dalle case. Era difficile che incontrassi qualcuno così di buon'ora. E bagnanti non se ne vedevano mai. Ma una mattina scorse ad un tratto una figura femminile che fino allora mi era rimasta nascosta. Procedeva cautamente sullo stretto terrazzino di uno dei capanni piantati nella sabbia, mettendo un piede davanti all'altro, con le braccia tese indietro lungo la parete di legno. Era una ragazza giovanissima, forse quindicenne, coi capelli biondi sciolti che le ricadevano sulle spalle e da una parte sul seno delicato. La ragazza guardava l'acqua dinanzi a sé. Scivolando adagio lungo la parete, si spostava senza alzare lo sguardo verso l'altro angolo e tutto a un tratto venne a trovarsi proprio di fronte a me. Tese ancora di più le braccia all'indietro come per aggrapparsi meglio. Alzò gli occhi e improvvisamente si accorse di me. Un tremito la scosse. Quasi dovesse cadere o fuggire, ma poiché su quella stretta striscia di legno non si sarebbe potuta muovere che lentamente, decise di fermarsi. E restò così. Il viso dapprima impaurito, poi arrabbiato e infine impacciato. A un tratto però sorrise. Sorrise meravigliosamente. Nei suoi occhi c'era un saluto, un invito e allo stesso tempo una leggera derisione nel modo come sfiorò fuggevolmente con lo sguardo l'acqua ai suoi piedi che mi divideva da lei. Poi distese il suo corpo giovane e snello, quasi fiera della sua bellezza e, come si poteva facilmente notare, fiera e deliziosamente eccitata per il luccichio del mio sguardo che sentiva fisso su di sé. Restammo così, l'uno di fronte all'altro, forse 10 secondi, le labbra semiaperte, gli occhi scintillanti. Tesi istintivamente le braccia verso di lei. Nel suo sguardo si leggeva passione e gioia. Ma all'improvviso ella scosse violentemente la testa. Staccò un braccio dalla parete e mi fece imperiosamente cenno di allontanarmi. E poiché non mi decisi a ubbidire subito, i suoi occhi di bambina assunsero una tale espressione di preghiera, di implorazione, che non mi restò altro che andarmene. Proseguii il mio cammino più in fretta che potei. Non mi girai a guardarla neppure una volta. Non proprio per riguardo, obbedienza o cavalleria, ma perché il suo ultimo sguardo aveva suscitato in me una tale commozione, superiore a ogni altra esperienza, che mi sentivo vicino a svenire. Tacque. «E quante volte?» chiese Albertine guardando dinanzi a sé, senza alcuna enfasi. «Hai rifatto in seguito lo stesso cammino?» «Quel che ti ho raccontato», disse Fridolin, «accadde per caso l'ultimo giorno della nostra vacanza in Danimarca. Neanch'io so che cosa sarebbe avvenuto in circostanze diverse. Evita anche tu di fare altre domande, Albertine». Albertine, gli occhi umidi e misteriosi, la fronte leggermente corrugata, gli si avvicinò. «D'ora innanzi ci racconteremo sempre subito storie del genere», disse. Egli annuì, muto. «Promettimelo». Attirò a sé. «Non ne sei convinta?» chiese. Ma la sua voce continuava ad avere un tono duro. Albertine gli prese le mani, le carezzò e lo guardò, con occhi velati, nel cui fondo egli poteva leggere i suoi pensieri. Ora lei riandava con la mente ad altre, più reali avventure di Fridolin, alle sue avventure giovanili, che conosceva in parte perché lui, cedendo troppo docilmente alla sua gelosia, gliene aveva parlato nei primi anni di matrimonio. Anzi, come spesso gli sembrava, le aveva abbandonate alla sua curiosità, mentre avrebbe fatto meglio a tenerle per sé. Sapeva che in quel momento sorgevano imperiosi in lei i ricordi, e si meravigliò appena quando le sentì pronunciare, come in sogno, il nome quasi dimenticato di una delle sue amanti di gioventù. Eppure, quel nome gli suonò all'orecchio come un rimprovero, anzi, come una lieve minaccia. Si portò alle labbra le mani della moglie. «In ogni donna, credimi, anche se può sembrare una facile affermazione, in ogni donna che credevo di amare, ho sempre cercato te. Ne sono convinto più di quanto tu possa capire, Albertine». Ella sorrise triste. «E se anch'io avessi avuto voglia di cercarti prima in altri uomini?» disse. Il suo sguardo si trasformò e divenne freddo e impenetrabile. Fridolin abbandonò le sue mani. Quasi l'avesse sorpresa mentre diceva una menzogna o lo tradiva, ma lei continuò. «Se sapeste...» E tacque di nuovo. «Se sapessimo? Che vuoi dire?» «Pressappoco quello che pensi, mio caro», rispose Albertine con insolita durezza. «Albertine, allora mi hai nascosto qualcosa?» Lei annuì e guardò dinanzi a sé con uno strano sorriso, mentre in lui si destavano inconcepibili, assurdi dubbi. «Non riesco a capire. Avevi appena 17 anni quando ci fidanzammo, 16 passati, eppure...» Lo guardò francamente negli occhi. «Non dipese da me se divenni tua moglie ancora vergine. Albertine!» Ed ella raccontò. «Fu sul Waters, poco prima del nostro fidanzamento. Una splendida sera d'estate, un bellissimo giovane si fermò davanti alla mia finestra, che guardava sull'ampia distesa del prato. Ci mettemmo a parlare. E durante quella conversazione pensai... Ebbene, senti un po' che cosa pensai. Che ragazzo simpatico e affascinante. Se dicessi una sola parola, quella giusta naturalmente. Andrei con lui sul prato, passeggerei con lui dovunque gli piaccia, forse nel bosco. Ancora più bello sarebbe se andassimo insieme in barca sul lago. Stanotte potrebbe avere da me tutto quello che vuole. Sì, questo pensai. Ma l'incantevole giovane non pronunciò quella parola. Mi baciò solo delicatamente la mano e il mattino successivo mi chiese se volevo diventare sua moglie. E io dissi di sì. Fridolin lasciò andare secco la mano della moglie e poi disse: «E se quella sera ci fosse stato per caso un altro davanti alla tua finestra e gli fosse venuta in mente la parola giusta, per esempio, pensò quale nome dovesse dire quando lei allungò le braccia come per dissuaderlo, un altro, chiunque altro, avrebbe potuto dire ciò che voleva. Non gli sarebbe valso a nulla. E se non fossi stato tu il giovane davanti alla finestra», gli sorrise, «allora anche la sera d'estate non sarebbe stata certo così bella». Egli storse beffardamente la bocca. «Sì, lo dici adesso e forse in questo momento ne sei anche convinta, ma...» Bussavano alla porta. Entrò la cameriera e disse che la portiera della Schreivolgelgasse era venuta a pregare il dottore di recarsi dal consigliere, che stava di nuovo molto male. Fridolin andò nell'anticamera e la donna l'informò che il consigliere aveva avuto un attacco di cuore e si sentiva malissimo. Promise che sarebbe andato immediatamente. Mentre si preparava in fretta, Albertine gli chiese: «Esci?» in tono adirato, come se il marito uscendo volesse farle un dispetto. Fridolin rispose quasi stupito: «Non posso certo farne a meno». Albertine sospirò leggermente. «Speriamo che non sia grave», disse Fridolin. «Finora 300 grammi di morfina lo hanno sempre aiutato a superare l'attacco». La cameriera aveva portato la pelliccia. Fridolin baciò piuttosto distrattamente Albertine sulla fronte e sulla bocca, come se il colloquio dei loro precedenti si fosse già cancellato dalla sua memoria, e si allontanò in fretta.